Lei ha 21 anni ed è il consigliere regionale più giovane che è mai entrato in Lombardia, così leggo delle agenzie. Quando li fa 22 anni? 22 l'8 settembre. Dunque, ancora 21 anni proprio, cioè non è che si avvicina ai 22, 21. Sì. Sono molto invidioso, vabbè, ma comunque, sono un altro discorso. Senta, ma lei nella vita cosa vuole fare? Vuole fare la politica? Cioè, oppure, sa, a 21 anni uno può decidere di fare l'università, di studiare, guarda, oppure... Allora, io in questo momento faccio l'università di economia, quindi vado avanti a studiare. Dopo qualche problema al liceo, vabbè, sorvoliamo. Vabbè, ma questo, ma vede, anche su quello è stata fatta tanto polemica, vede, un anno l'ho perso quando è stato male papà. Sì. Perché volevo a tutti i costi capire come funzionava la politica per poterlo aiutare, e quindi lì ho perso un anno. Poi? E l'altra volta hanno voluto creare un sacco di polemiche, ho fatto anche un ricorso vinto perché era un attacco politico più che un esame, e quindi è andata un po' così. Però beh, adesso ho iniziato l'università di economia, vado avanti, dall'altra parte... Scusi, faccio... tanto per precisare, ma lei ha superato poi quella prova al quarto tentativo o al terzo? Terzo. Al terzo. Sì, sì, sì. E adesso e si è iscritto a economia? Momento, quindi, non è... Sì, sì, economia. In questo momento non è tanto un lavoro la politica, è una passione che ho vissuto in casa, sì, e che voglio portare avanti. C'è un progetto che la Lega ha iniziato 30 anni fa che oggi pian piano va portato avanti, e anche dalla regione oggi voglio portarlo avanti. E dunque lei vuole fare consigliere regionale e vuole studiare all'università? Assolutamente, è quello che farò. Senta, c'è una questione, lei ormai, insomma, le si possono fare anche domande politiche, perché ormai è consigliere regionale in Lombardia, sì, sì, certo, e dunque il sindaco di Milano è una questione sul tappeto, suo padre si è addirittura candidato, oggi il PDL dice no, tocca a noi, secondo lei come va a finire? Secondo me non tocca, ma no, non è che tocca o non tocca, cioè, io penserei adesso alle regionali che bisogna fare tante cose, dopodiché per il comune di Milano si vedrà. Non però non mi faccio deciso. Troppo diplomatico, no, siccome si è candidato oggi. Suo padre, siccome ma si è... lei mi chiede se domani si candiderà della Lega al PDL, questo non si no, può, certo, rispondere, non si può rispondere direttamente, ma insomma il fatto che suo padre ha detto io ho posto il mio nome lì e lì, dunque secondo lei... Beh, ha sottolineato il fatto che per noi Milano è una città importantissima, città simbolo della Lombardia, e quindi ci teniamo. E dunque ci puntate? Beh, può anche essere. Può anche essere, bene. Senta, lei è stato team, è ancora, ma non credo che lasci, sì, come sì, team manager della Padania. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì. Che avete vinto fino adesso? Io mi sono perso il conto. Ma per adesso abbiamo vinto due volte il campionato del mondo, una volta in Lapponia e una volta da noi. Una volta qui in Lombardia, no? Sì. Qui in Lombardia. Dunque siete bicampioni del mondo. Sì. Uno in meno dell'Italia, no? Anzi, due in meno, noi quattro, insomma. Vabbè, ci vorrà poco. Poi io, come ho già detto, sfiderò il CT della nazionale italiana a fare una sfida Padania Italia San Siro, perché no? Sì, così proprio? Beh, così sì. No, ma dico, ma la organizzate questa cosa? Ma io la farei anche. Non so se il CT della nazionale accetterà l'invito di fare questa sfida. Dunque, Padania Italia, lei sogna, sì, un incontro. Dove si giocherebbe? Ma io lo farei a San Siro, visto che è il nostro stadio simbolo.